Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di fisco, di quello che almeno qualche volta sembra davvero voler vessare le persone, almeno secondo le interpretazioni di tutti quei contribuenti onesti. Ce ne sono tanti nel nostro paese, questo è un tema che affrontiamo tante volte, lo fanno soprattutto i contenitori Focus Economia, l'ho fatto tante volte anche Oscar Giannino in 9 in punto, la versione di Oscar. Di cosa parliamo oggi? Allora, sentite l'attacco di questa lettera. Gentile contribuente, dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate risulterebbero spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati nel 2009. È importante che lei valuti la compatibilità fra redditi e spese perché il fisco procederà ai necessari approfondimenti. Allora, qualcuno di voi ha ricevuto questa lettera che ha come emittente appunto l'Agenzia delle Entrate? Raccontatecelo stamattina all'800240024. Questo è il primo effetto tangibile del nuovo redditometro rivisitato e corretto dalla manovra estiva dello scorso anno. Il riflettore si accende, viene puntato su una rosa più ampia di contribuenti e su una rosa più ampia di spese che possano apparentemente almeno risultare in conflitto con i redditi del contribuente. Chi sono i destinatari di questo invio ad ampio raggio? A cosa puntano le lettere delle entrate? Concretamente, come successivamente arriveranno e se arriveranno le verifiche? Stamattina affrontiamo questo tema che è molto scottante, molto interessante, che peraltro si inserisce proprio nel pieno del dibattito sulle novità relative alla riscossione. Parleremo anche di questo mattina. Ben trovato al collega del Sole 24 Ore, Gianni Trovati. Gianni, ciao. Buongiorno. L'autore in questi giorni di tutti i pezzi relativi a questi temi, ai preavvisi fiscali ad ampio raggio, come stamattina vengono definiti dal Sole 24 Ore, tutto ciò che riguarda la lotta all'evasione, sulla quale il governo sta intensificando notevolmente le sue misure. Fra un po' arriverà anche, non è ancora arrivato, Nicola Cavalluzzo, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Allora, vi ho già come sempre spiegato la modalità per interagire con noi, che è in primo luogo quella di chiamare l'800240024 oppure scriverci al 349-238-6666. Oppure potete anche inviarci una mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Già peraltro su questo argomento, sul tema della lettera dell'Agenzia delle Entrate, è stato letteralmente anche preso d'assalto il sito web delle Sole 24 Ore. Questa mattina il Sole riporta anche alcune delle prese di posizione da parte dei lettori, ce ne sono diverse anche molto interessanti, magari qualcuna la leggeremo insieme a Gianni Trovati. Prima di partire la borsa, vi ho già dato alcune indicazioni nel giornale radio, è una borsa oggi con nessuna direzione precisa, leggermente positive Parigi e Francoforte, adesso anche Londra, Milano invece segno meno, -0,32%, molte vendite che tornano a colpire il settore bancario, oggi particolarmente preso di mira dagli investitori Azimut che perde il 3,85%, Mediobanca -3,24%, Banco Popolare -2,80%, Fondiaria -2,52%, -2% anche per Unicredit. In rialzo invece anche in questo caso alcuni bancari, la Popolare di Milano oggi recupera lo 0,97%, il mercato si rifugia anche su alcuni titoli difensivi, Enel +0,7%, Eni +0,56%, in rialzo dello 0,7% anche Fiat. Gli appuntamenti centrali della giornata sono a Londra e a Francoforte, c'è la riunione della Banca Centrale d'Inghilterra e la riunione soprattutto della Banca Centrale Europea, che non interverrà oggi sui tassi, ma ci si aspettano delle delucidazioni, dei chiarimenti da Jean-Claude Trichet, il numero uno della BCE, sulla sua intenzione o meno di effettuare una nuova manovra sui tassi di interesse in luglio. Questi i principali temi della seduta, direi che per la borsa la possiamo anche lasciare da parte per il momento. Andiamo adesso agli strumenti del nuovo redditometro. Gentile contribuente, puoi spiegarmi come hai fatto a spendere determinate cifre nel 2009, se per lo stesso periodo hai dichiarato un reddito che non potrebbe giustificarle? È all'incirca questo il senso della lettera che centinaia di migliaia di cittadini stanno ricevendo in questi giorni. Il mittente è l'Agenzia delle Entrate, che presenta così uno degli ultimi strumenti di cui si è dotata per combattere l'evasione fiscale, il redditometro. La lettera, a firma del direttore Befera, è particolarmente cordiale e non suona come un'ammonizione, quanto piuttosto come un avviso che prevede, da una parte, la possibilità che i controlli dell'agenzia non siano corretti, dall'altra, la possibilità che si effettui un ravvedimento operoso che porti al pagamento della sanzione solo per un importo pari a un ottavo della penale. Resterà dunque nelle possibilità del contribuente dimostrare che si tratta non di una spesa incongrua, quanto piuttosto di una spesa effettuata attraverso redditi differenti da quelli percepiti attraverso l'attività lavorativa, dunque, ad esempio, donazioni o rimborsi. Il redditometro è infatti sostanzialmente l'accertamento sintetico del reddito dei contribuenti, che si basa sullo stipendio, sul tenore di vita e su di una serie di spese che le persone compiono. Tra queste spese, come indicative della capacità contributiva di una persona, sono inseriti i viaggi, la frequenza nei centri benessere e i contributi a colf e dipendenti. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Devo dire che, esattamente come ieri, è stato preso d'assalto il sito internet del Sole 24 Ore. Qua il tema ha già scatenato anche i nostri ascoltatori, sia al numero verde che all'SMS al 349 238 6666. Allora, Gianni Trovati, quando abbiamo detto nella scheda la lettera dell'Agenzia delle Entrate ha una forma gentile, tu hai un po' scosso la testa. Non è così, la riportavate ieri anche, non ti voglio mettere in difficoltà con Beffa, ci mancherebbe. No, sì, allora, comunque, anche se fosse massimamente gentile, già il mittente, ecco, il problema è l'intestazione. Timore, ecco. Il problema è l'intestazione, che però ovviamente è quella dell'Agenzia delle Entrate. La lettera è gentile, è cordiale, tra l'altro sottolinea il fatto che chi come dire, non è troppo d'accordo, chi anzi vede degli errori nei dati comunicati dall'agenzia, ha due strumenti per avvertire subito l'agenzia. Lo strumento sono i cosiddetti centri di assistenza multicanale, che funzionano sia via telefono, c'è il numero nella lettera, sia via web, via mail, c'è l'indirizzo mail nella lettera. Per carità, da questo punto di vista nessun problema. Devo dire che, come appunto sottolineavi tu, sito internet e forse anche la trasmissione di stamattina vengono presi d'assalto dai lettori, dagli ascoltatori, perché una lettera dell'Agenzia delle Entrate, come dire, per quanto abbia toni morbidi, non fa mai troppo piacere, e soprattutto chi non è troppo abituato o chi non segue tutti i giorni professionalmente, diciamo, questo tipo di problemi, è stato un po' scosso, un po' impaurito. La lettera a Gianni costituisce il presupposto all'avvio dell'accertamento? La lettera costituisce un presupposto non necessario, nel senso che questo è un avviso. La lettera dice: guarda, dalle banche, dall'incrocio tra i tuoi redditi dichiarati e le banche dati abbiamo trovato dei numeri che non ci tornano, appunto, che ci paiono spese eccessive rispetto ai redditi che hai dichiarato. Tre passaggi. Uno, se hai trovato errori, diccelo con gli strumenti che dicevo prima. Se non hai trovato errori ed effettivamente, come molti italiani fanno, hai nascosto dei redditi al fisco, hai tempo per un ravvedimento operoso, diciamo così, che sui redditi 2009 ti consente di presentare una dichiarazione integrativa entro il 30 di settembre e mettere a posto la tua situazione pagando l'imposta su quello che non avevi dichiarato più una sanzione molto ridotta. Poi su sta sanzione ridotta c'è un problema, ma ci andiamo dopo. In terza battuta, se non hai trovato errori, ma non hai nemmeno nascosto nulla al fisco, tu non devi fare nulla. Può darsi che ti arrivi poi un accertamento successivo. Non è detto che ti arrivi l'accertamento, perché le entrate, nella loro strategia, diciamo, dei controlli, ribadita nella circolare di quest'anno, ma anche è un'evoluzione un po' degli ultimi anni, hanno invitato gli uffici a concentrarsi sui contribuenti, diciamo, più promettenti, per massimizzare il beneficio minimizzando lo sforzo, diciamo così. Hanno detto agli uffici: non andate a cercare, non andate a spulciare casi in cui, se vi va bene, l'imposta evasa che riuscite a far emergere è di poche migliaia di euro, concentratevi sui grandi evasori, che tanto in Italia, insomma, ce ne sono. Però pare che, almeno dalle esperienze che stanno cominciando a raccontarci i nostri ascoltatori, come quelle che ieri credo sono arrivate anche al sito internet del Sole, non sia esattamente così, nel senso che anche piccoli pesciolini sono stati raggiunti da questa richiesta di avvio di accertamento, almeno chiamiamola così, anche se forse era definizione non è corretta, per cui qualcuno si chiede effettivamente se lo strumento utilizzato è giusto. Esatto, infatti le lettere hanno raggiunto una platea molto ampia, perché nascono sostanzialmente da un automatismo nemmeno troppo raffinato. Ce lo facciamo spiegare da Nicola Cavalluzza, allora Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano, benvenuto, buongiorno. Buondì. Quanti clienti l'hanno chiamata in questi giorni per chiederle dei chiarimenti su questa richiesta di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate? Abbastanza, e purtroppo è diventato il motivo delle 80% delle telefonate di queste ultime due giornate. Però ha ragione il collega Gianni Trovati, perché quando ci affidiamo alle macchine, il rischio di o non colpire o di sparare a ventaglio, come si dice nel gergo del calciatore, è elevatissimo. È vero che sparando nel mucchio qualcuno lo prendo, a casa mia ando coio coio, si dice, vabbè, questa è un'altra cosa, ma non è il modo migliore per approcciare, perché cosa significa? Sì, è vero, gentile contribuente, quindi molto carino l'approccio, ci sono una serie di dati, vero, mi consente questi dati di fare dei conteggi piuttosto che dei controlli su me stesso, altrettanto vero, ma poi qual è la parte 2 di questa vicenda? La parte 2 di questa vicenda è appunto un invito, perché altrimenti non si potrebbe andare avanti, al contribuente, immagino con le regole che abbiamo sentito prima, quindi quelli che danno maggiore possibilità di incasso. Se voi leggete il comunicato di inizio anno il Ministero si è soffermato a lungo sulle entrate per accertamenti di questo tipo, e si parla di cifre molto molto molto rilevanti, quindi è chiaro che hanno tutto l'interesse. Bene, allora, se così fosse, la cosa potrebbe anche funzionare. Il timore nostro da operatori è che poi alla fine, quando la platea si allarga, come si vuol dire, si rischia di non andare esattamente dove la legge inizialmente voleva colpire, quindi si rischia, certo, di perdere l'obiettivo. Soprattutto di fondo. Non vorrei che poi, anche perché qualcuno appunto si ritiene raggiunto in maniera non pertinente, che tutto questo generasse anche lo scatenamento, si dice questa parola, non so neanche adesso, insomma, mentre la dico già mi risulta storta, di una serie di contenziosi ulteriori che rischiano appunto anche di allungare, procrastinare ulteriormente anche la possibilità di recuperare queste somme, per cui per la verità, insomma, forse il rivolo delle possibilità di problemi è ancora più ampio di quello che si pensa. Noi adesso ci fermiamo perché abbiamo la nostra prima pausa, ma adesso andiamo anche soprattutto alle testimonianze concrete degli ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24, e soprattutto cercheremo di dare delle indicazioni pratiche concrete a chi ritiene di essere assolutamente in regola e quindi vuole essere tranquillizzato sul fatto che non ci sarà nessun tipo di conseguenza dopo questa lettera. Chi invece sa che ha una situazione un po' in bilico, come può fare per ravvedersi? Ribadiremo tutte quante le regole, perché anche questo mi sembra un aspetto molto importante. Eccoci di nuovo in diretta, oggi parliamo del nuovo redditometro che si aspettava da qualche mese. In questi giorni la sua operatività si concretizza con l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, che sta inviando una lettera a molti contribuenti, lettera nella quale si chiede ragione di spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati nel 2009. Molti contribuenti che hanno ricevuto questa missiva, molti tranquilli perché dicono di non aver nessun problema in sospeso con il fisco, molti altri invece un po' più timorosi perché, come dicevamo prima scherzando con Gianni Trovati, già il fatto di avere una lettera da questo mittente sicuramente un pochino di allerta ce la impone. Detto questo, abbiamo molte testimonianze di molti ascoltatori che ci vogliono raccontare appunto il fatto di averla ricevuta, ma ritengono di non essere dei corretti destinatari di questa missiva. Allora sentiamone qualcuno, poi li commentiamo con i nostri ospiti. Vi ribadisco: Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, Nicola Cavalluzzo, Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano. Emilio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Emilio, buongiorno. Io ho un fratello che si è sposato nel 2009 e ha acquistato un appartamento con la sua compagna, e che per un valore consistente, che sono andati anche in viaggio di nozze, hanno speso i soldi che gli hanno dato gli amici e i parenti per questa cosa. Uh-huh. Solo che il reddito di quell'anno di mio fratello col lavoro suo è abbastanza basso, ecco, diciamo il rapporto è 20.000 reddito e 60.000 la contestazione, la spesa dell'anno, ecco. Certo, praticamente l'Agenzia delle Entrate contesta l'acquisto di una casa di valore così importante, che non sarebbe congruo. Non contesta quello, mette quella cifra lì come contestazione, però penso che le uniche cose che ha fatto sono quelle, fa il precario, quindi certo. non vedo cos'altro possa contestare. Beh, ma magari suo fratello non deve temere nulla, solo banalmente dimostrare la sua nuova situazione. Gianni, no, con chi cominciamo? Chi vuole rispondere? Gianni Trovati. Sì, allora, questo è appunto lo scenario, diciamo, delle regole, nel senso che, ed è il punto chiamiamolo debole o comunque problematico di tutta la partita redditometro, di cui questo è un piccolo capitolo, perché chiaramente si presuppone che nessuno, quasi nessuno, compri una casa pagandola in contanti con lo stipendio del mese prima. Questo succede raramente, soprattutto a Milano, con i valori del mercato immobiliare che ci sono. Comunque, a parte gli scherzi, quindi per gli acquisti importanti è ovvio che entrino dei redditi degli anni precedenti, dei risparmi, eccetera eccetera, come sempre quando si compra casa, tanto più che poi entra un mutuo, un finanziamento della banca, l'aiuto della mamma, eccetera eccetera eccetera. Questo è ovvio. Questa ovvietà non viene però pescata, diciamo così, subito dall'automatismo, nel senso che il sistema automatico vede che tu nell'anno X hai speso per la casa eccetera il triplo di quello che hai guadagnato e ti chiede il perché. Quindi l'automatismo non lo becca, perché dal punto di vista, voglio dire, dell'amministrazione finanziaria non c'è nessuna preoccupazione, nel senso che se tu poi mi dimostri, poi magari con Cavalluzzo vediamo anche i problemi di questa dimostrazione, però l'idea è, se tu poi mi dimostri, guarda, ho fatto il mutuo, cioè avevo i risparmi, mi ha aiutato la mamma, va bene, saluti e baci, arrivederci e grazie. Il problema è che così non è sempre, nel senso che da un lato c'è ovviamente, come testimoniava l'ascoltatore, siccome appunto l'approccio che il singolo contribuente, il singolo cittadino ha è incontestabile, nel senso che è corretto ed è comprensibile che sia un po' inquieto se riceve una, appunto lui l'ha chiamata contestazione, non è una contestazione tecnicamente parlando, però viene un po' percepita così, si mette in moto appunto tutto il meccanismo, come faccio a dimostrare, soprattutto aiuti di parenti, brevi manu e cose di questo genere. Ripeto, la lettera non è non è una storia già tutta scritta che arriva all'accertamento. L'accertamento può anche serenamente non arrivare. Potrebbe concludersi così. Potrebbe concludersi, Emilio, esatto. Potrebbe concludersi così. L'accertamento potrebbe non arrivare. Se arriva, c'è da dimostrare questo dato, cioè che in questo caso l'immobile, gli immobili sono spesso al centro di questo problema. Mi pare di capire l'elevatissima percentuale, esatto, che si parte. Che l'immobile è stato acquistato con i mezzi con cui è stato acquistato, cioè il mutuo, l'aiuto dei parenti, eccetera. Quindi insomma eccetera. Questa è la cosa più dirompente, Nicola Cavalluzzo, che al fratello di Emilio potrebbe accadere, quello di essere di nuovo richiamato. Guarda, parte l'accertamento sintetico, peraltro questo sarà il prossimo step, la partenza dell'accertamento vero e proprio. Questo è l'accertamento sintetico, cioè si basa su dati rivenienti da banche dati e quindi non andando ad analizzare la capacità del singolo contribuente. Però due riflessioni, certo. Un po' per così dare qualche indicazione rapida, veloce ai nostri ascoltatori. Primo tema. E poi anche per dare qualche, se possibile, indicazione alla nostra agenzia delle entrate, perché le banche dati ce le ha, ma le deve usare a 360 gradi. Traduco. La norma parla di spesa sostenuta. Cassazione ha detto che sostenuta significa effettivamente rimasta a carico di colui che ne ha la disponibilità del bene piuttosto che l'utilizzo del servizio. Ok. Sostenere una spesa in modo tracciabile deve essere la regola che ormai segue tutti. Questo non significa che io debba necessariamente comprare tutto con carta di credito negli Stati Uniti. Chi è andato negli Stati Uniti sa che anche Shushine, il lustrascarpe, si può pagare con la carta di credito. In Italia ci sono tutta una serie di negozi che non amano la carta di credito perché gli costa 3%, 4%, 1,50%, dipende. Vabbè. Detto questo, Allora io mi dico, allora in questo caso, laddove le disponibilità siano state utilizzando, depatrimonializzando, 1 gennaio 2010 avevo 100.000 euro, il 22 ottobre del 2010, quindi casa, terminato il viaggio di nozze, pagato le spese, comprato la casa, ho 40.000 euro su quel conto corrente. Il contribuente, l'ascoltatore, non ha nessun problema, mm-hmm, ha tutto. Se tutto fosse se stato però fatto, questa casa è stata comprata magari con un 50.000 euro di prestito da zia Maria, che non si sa bene come ha erogato questo denaro, lì potrebbe diventare un problema? È un problema di spostamento del problema, scusami il gioco di parole, nel senso che zia Maria avrà avuto l'accortezza, perché la cifra è tale, di ritirare, non di da dare, un conto corrente, ma di fare un bonifico, un bonifico da o zia Maria di ritirare a nipotino, da un libretto di risparmio, da un conto corrente. Ok, a questo punto lui deposita sul suo. E a questo punto lui ha la tracciabilità della fonte. Però è qui la domanda provocatoria: ma cara agenzia, ma queste cose tu le puoi vedere direttamente? Hai già delle banche dati? Hai l'accesso al conto corrente, vai a vedere. Se in quell'anno io ho un conto corrente che viene movimentato in misura congrua rispetto a questi che sono gli indicatori di spese e di reddito, perché non ci dimentichiamo che adesso abbiamo anche questo piccolo problema, cioè secondo quarto e quinto comma dell'articolo 38, se sono due modalità di accertamento che debbano essere combinate o debbano essere analizzate separatamente, cioè parto prima con lo spesometro e poi, chiuso lo spesometro, parto con il redditometro. Quindi insomma il tema è che su questi contribuenti, per i quali si può avere la quasi totale ragionevole certezza che non hanno niente da sistemare, da dichiarare, era inutile fare un'operazione di questo tipo, si poteva andare con i dati già disponibili dritti al pesce da pescare. Assolutamente. Signor Befera, qua è arrivato già un primo messaggio per lei. Adesso andiamo al caso di Anna Maria da Verona, poi ci sono anche tanti messaggi, ci piacerebbe veramente leggerli tutti, perché c'è anche ovviamente chi ritorna a raccontarci del suo stato attuale di disoccupazione, riceve questa lettera e dice: ma insomma, possibile? C'è Anna che ci scrive: mi aiuta mio padre, come faccio a dimostrare che me li dà lui? Anna, intanto bisognerebbe capire se anche a lei l'Agenzia delle Entrate ha chiesto ragione del suo comportamento di spesa rispetto ai redditi del 2009, però affronteremo anche il suo caso. Adesso andiamo ad Anna Maria da Verona. Pronto? Buongiorno Anna Maria. Sì, ci sono. Sì. Ho sentito tutto. Sì, sì, è arrivata ieri questa lettera a mia figlia e lei ci è rimasta male, perché effettivamente sì, l'appartamento l'abbiamo comprato noi. Ovvio che i genitori hanno provveduto. Quando hai azioni in banca, vedi che ti spariscono sotto il naso, a un certo momento ti butti. E certo, sul mattone, dice lei, no? Per non buttarsi da un'altra parte, Anna Maria. Quindi, insomma, lei ha fatto questo investimento per sua figlia, questo investimento sarà stato intestato a questa ragazza, evidentemente. Che cosa fa sua figlia nella vita, Anna Maria? Perché credo che anche questa sia una variabile non indifferente. Ecco, mia figlia è dottorata in lingue ed è senza lavoro, ovviamente. Ha fatto recentemente un periodo negli Stati Uniti perché aveva vinto una borsa di studio, ha pagato le tasse lì, perché le hanno trattenuto su quello che aveva guadagnato. Poi per due mesi di tempo ha finito per andare in rosso, perché tra viaggio e mantenimento però certo l'agenzia dice, ecco, rispetto a quel tenore di vita che aveva, rispetto a quello che percepiva eccetera, non è possibile che improvvisamente si sia potuta intestare un'abitazione. Poi l'Agenzia delle Entrate chiaramente comprenderà moralmente in maniera molto chiara che l'acquisto è stato fatto dai genitori, però bisogna dimostrarlo. Nicola Cavalluzzo, il problema è sempre quello, quindi la tracciabilità, per cui io immagino un versamento fatto dal conto corrente dei genitori a favore del conto corrente della figlia e il pagamento al venditore fatto con assegni circolari tratti dal conto corrente della figlia. Questo risolve tutta una serie di problemi. Ne potrebbe aprire uno, ma lo enuncio, perché poi è un problema di importi ed è un problema di donazione, ma questo è un altro tema che lo lasciamo un attimino. Non solleviamo anche questo coperchio, perché sennò ci si ingarbuglia ulteriormente la situazione. Adesso ci fermiamo ancora a suggerimenti per chi è in viaggio. A tra pochissimo. Stanno arrivando davvero tanti sms, tante domande, non ce la faremo mai ad affrontare tutto e come al solito devo ripromettere di ritornare più presto sull'argomento. Allora, avevamo lanciato anche il caso di Anna che ci racconta: io sono disoccupata, mi aiuta mio padre, come faccio a dimostrare che i soldi me li dà lui? Adesso a parte la procedura banale di un trasferimento di denaro da un conto corrente ad un altro, che potrebbe essere, credo, sufficiente a dimostrare che il sostentamento di questa ragazza in questo momento lo fanno i genitori, c'è però una novità intervenuta di recente, Nicola Cavalluzzo, dalla Cassazione, che non è così favorevole, mi pare di capire, alla rete di protezione sociale che in questo momento esercita la famiglia. Sì, perché noi ormai eravamo abituati all'approccio, devo dire, corretto dell'agenzia, in cui dice, beh, quando ha dato le istruzioni agli uffici per muoversi su questi temi, ha sempre detto allargate il campo d'azione, guardate il nucleo familiare, per cui moglie casalinga, marito professionista. La moglie casalinga può benissimo intestarsi un autoveicolo che chiaramente è pagato, tutta una serie di presunzioni. Beh, Cassazione fine maggio è andato al di là e ha detto no, un attimo, io devo avere la certezza che la spesa sia stata sostenuta dal soggetto che ha dichiarato di. Il caso era quello che vi ho enunciato, con una piccola modifica, cioè che l'assicurazione dell'auto veniva pagata dal figlio. La Cassazione dice pagare non significa sostenere. È sottile il ragionamento, come dire lui fa finta di pagare e tu rimborsi in qualche modo o compensi. Quindi oggi il problema è: io devo dimostrare che colui che risulta essere il soggetto inciso del pagamento è quello che poi è inciso fino alla fine. E quindi attenzione, non è sufficiente il conto corrente, ma in quel conto corrente, cioè i 10.000 euro che sono usciti al 2 di gennaio, non devono rientrare in qualche modo al 25 di aprile. Gianni Trovati, volevi aggiungere qualcosa su questo? Sì, diciamo che tutte queste vicende, le vicende che ci arrivano a valanga dagli ascoltatori, dimostrano che c'è la forte esigenza che noi ci mettiamo finalmente d'accordo con noi stessi. Nel senso che da un lato diciamo... dico, in realtà io non lavoro all'Agenzia delle Entrate, quindi adesso passo dal noi al loro, insomma. Da un lato si dice, concentriamo le verifiche sulla maxi evasione, sull'evasione che butta fuori, che cuba parecchie migliaia di euro, fenomeno che in Italia, come sappiamo, non manca. Concentriamoci su quello. Dall'altro lato, noi per esempio oggi sul Sole 24 Ore, con l'aiuto del collega Saverio Fossati, raccontiamo la bella storia di un contribuente che si è visto arrivare una cartella da 313,59 euro perché aveva un debito IRPEF di un centesimo, perché poi lì c'è appunto la riscossione, le spese di riscossione, la sanzione, bla bla bla bla bla. Allora, lo stesso problema, la stessa contraddizione si nota in questa vicenda delle lettere, nel senso che, faccio un discorso, come dire, teorico, che però ha un senso. Se io ho una barca oppure ho tre macchine da 400.000 euro l'una, posso anche sopportare che il fisco mi chieda perché. Se io ho comprato un bilocale al Giambellino senza terrazzo, voglio dire, e ho, come dire, l'ho pagato con tutti gli strumenti, appunto la mamma, la zia Maria, eccetera eccetera, il fatto che mi si chieda perché, certo, crea un disagio. Anche hai voglia perché a dirmi che non ti succederà sono niente, un tipo perché, di contribuente, però, diverso, certo, questo certo è il punto. Emotivamente un po' più fragile, immagino. Allora, vi ricordate tutta la vicenda dei contribuenti di Cagliari, l'enorme sollevazione popolare di qualche settimana fa, perché contestavano duramente i metodi di riscossione, naturalmente, del fisco italiano, le ganasce, i piglioramenti, gli accertamenti fiscali appunto senza ritegno. Allora, loro avevano protestato in un certo modo, lo ricorderete bene. C'è anche un altro gruppo di imprenditori che stanno facendo la stessa cosa, imprese che resistono, si chiama questo gruppo. Noi questa mattina abbiamo interpellato uno di loro, lo saluto, Giuseppe Scalenghe, buongiorno. Buongiorno. Che il tema di stamattina non è esattamente il tema della riscossione, cioè in qualche maniera sì, naturalmente, perché poi queste sono tutte strade che si incontrano prima o poi. Detto questo, Scalenghe, volevo sapere se oltre ad essere stati presi d'assalto da ganasce, fermi amministrativi e pignoramenti, adesso voi state ricevendo anche, così tanto perché piove sempre sul bagnato, state ricevendo anche qualche lettera di accertamento sui redditi 2009. Sì, certamente anche noi siamo soggetti a questa novità. Direi che in generale le imprese e gli imprenditori sono particolarmente stati curati da Equitalia e hanno avuto trattamenti che certamente non hanno agevolato né gli imprenditori, parliamo anche di piccoli, cioè ci sono stati casi in cui agli artigiani, parliamo di loro, noi non siamo artigiani, siamo già aziende un pochettino più grandi, ma addirittura sono stati sequestrati i mezzi che per loro sono strumenti di lavoro, quindi diventa difficile capire come togliendo gli strumenti di lavoro alle persone queste possano produrre reddito per far fronte ai debiti, però così è. Dal nostro punto di vista direi che il discorso del redditometro, come tante altre volte è successo, nasce con degli obiettivi giusti, come potevano essere gli studi di settore o altri strumenti. Il problema è poi vedere la realizzazione che ne viene fatta, che molte volte diventa distorsiva, come è stata per esempio per il discorso degli studi di settore, che ormai sono diventati chiaramente non più adeguati alle situazioni, non più riferenti alla realtà. Quindi il problema poi come? Certamente noi una delle cose che rivendichiamo come gruppo spontaneo di imprenditori che si sono uniti in questo momento di cambiamento radicale dell'economia, di disagio eccetera, è certamente il discorso fiscalità. Sappiamo benissimo che il discorso fiscalità, lo dice il nostro ministro Tremonti, non si muove fin tanto che la condizione che deve esserci il pareggio di bilancio. Ed è chiaro che uno dei modi per finanziare la riduzione della fiscalità è che tutti paghino le imposte. Infatti. Quindi Giuseppe, siamo assolutamente d'accordo sul fatto che vengano scovati coloro che le imposte non le pagano, perché non possiamo noi pagarle per loro. E gli imprenditori che fanno correttamente il loro mestiere, sono onesti, sia come imprenditori che come persone fisiche, penso che non possano sposare la causa. Il problema, ripeto, è come lo strumento lo fa, perché Giuseppe, voi avete bene avete bene raccontato dagli interventi precedenti le distorsioni che poi nascono e diventano. E infatti, Giuseppe, io purtroppo devo salutarla, la ringrazio comunque per la sua testimonianza, l'abbiamo sentita sia lei che altri esponenti del suo gruppo anche per altre trasmissioni, continueremo naturalmente a condividere anche noi per quello che possiamo fare la vostra battaglia, ritorneremo anche su questi strumenti non sempre giusti del redditometro, così come lo spesometro, che è un altro aspetto che sarebbe da affrontare, ci siamo già andati in passato, ma anche lì insomma un bel ginepraio. Grazie intanto per il momento a Gianni Trovati e Nicola Cavalluzzo per essere stati con noi, buona giornata a tutti, anche a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, grazie a Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Salvadanaio torna domani, buona giornata.